Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Eclettica di metà settimana. Giulio Caperdoni in vostra compagnia per la terza volta questa settimana, visto che in tutto le trasmissioni sono 5, dal lunedì al venerdì fra le 19 e le 20. Un'ora divisa in due parti da 30 minuti ciascuna, disponibile anche in podcasting, tutti i dettagli su www.radiorockfm.com oppure su myspace.com/eclettica. Il mio indirizzo di mail è giulio@radiorockfm.com, da utilizzare nel caso abbiate intenzione di scrivermi direttamente oppure nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera, se vi interessa ricevere settimana dopo settimana la playlist di Eclettica. Era il 18 gennaio 1990. Un vento fresco, a tratti forte, soffiava da sud, portando con sé nubi cariche di pioggia. Il viale della stazione di Limaman era deserto, a parte qualche isolata automobile, i cui fari si riflettevano nelle vetrine o sull'asfalto bagnato. Con il vento alle spalle era facile camminare. Le raffiche più violente quasi mi sollevavano, spingendomi verso l'imbarcadero dei traghetti, dove ero diretto. Ma non avevo alcun motivo di affrettarmi. Un giovedì sera del primo mese dell'anno, quando i traghetti viaggiavano mezzi vuoti e la sala d'aspetto invita a tutto fuorché ad aspettare. Questo era l'incipit del Cerchio Celtico di Bjørn Larsson. And so, Marty, I now say farewell and wish you Godspeed. You've been a good, kind, and loyal friend to me, and you made a real difference in my life. I will always treasure our relationship and think on you with fond memories, warm feelings, and a special place in my heart. Your friend in time, Doc Emmett L. Brown, September 1st, 1885. I never knew I could write anything so touching. No, Doc, it's beautiful. Prima di lasciare lo spazio ai Black Vatican, vi rammento che cosa vi siete ascoltati nei primi minuti di Eclettica di quest'oggi. Prima da Berlino, Klimek, artista che incide per la Anticipate, un album intitolato Dedications, dal quale ho estratto di Ice Storm. Poi dal Quebec, uno dei tanti gruppi che cantano in francese, un'onda linguistica sempre più forte, quella che arriva da quella regione del Canada, Pa Chic Chic. Per il titolo della loro canzone vi rimando invece alla playlist, troppo complicato per me. Black Vatican, vi dicevo, un nome che sicuramente si imprime nella testa, è facile da ricordare, colpisce. Black Vatican, che provengono dall'Iowa e un pochettino mi ricordano i Suicide. Questa è Touch Teacher. We'll be right back. C'erano giorni sull'Atlantico senza una nuvola all'orizzonte, in cui il mare e il cielo erano dello stesso azzurro profondo. In quei giorni un sole tagliente illuminava masse d'acqua in tumulto, le creste candide delle onde si strappavano in brandelli di schiuma, la nave rollava su quelle enormi montagne d'acqua e un vento implacabile sollevava un polviscolo di spruzzi che accendeva fugaci arcobaleni attorno alla prua. Era quel genere di giorni per cui certe persone sarebbero pronte, sia pure in senso figurato, a dare la vita, ma che la maggioranza darebbe qualsiasi cosa per evitare, non fosse altro che per paura della morte o della vita. Questo era l'incipit de Il porto dei sogni incrociati di Bjørn Larsson. Hordes of faces, empty eyes, I see nothing new. Seasoned schemes of slimy curves offer up their flu. Am I beast or am I human? Am I just like you? Power seething, really reeling, reaching out for you. Am I demon? I need to know. And faces of a million hells rage inside these veins, pounding out deserved pain to anyone in need. And am I beast or am I human? Am I just like you? Power seething, really reeling, reaching out for you. Am I demon? I need to know. Am I demon? You need to know. And every word and every limb torn asunder base. Everything I need is me, everything I am. Am I beast or am I human? Am I just like you? The power seething, really reeling, reaching out for you. Am I demon? Need to know. Reading my favorite author, Jules Verne. I spent weeks preparing that expedition. I didn't even get this far. Of course, I was only 12 at the time. Questa è la canzone di cemento armato. feci solo tu. L'industria discografica italiana allo sbando ed io non sono affatto giù. Canto nel cemento armato perché la plastica non vince, perché la plastica non mi convince, la lascio masticare questo prece che pensa di essere cristallo, ma sono solo schegge. Era stato Bonnie Prince Billy con un rifacimento dei Danzig e My Demon qualche minuto fa, da un disco, il nuovo di Bonnie Prince Billy, che contiene solo ed esclusivamente cover. Poi invece ci siamo ascoltati Canzone di Cemento Armato da Nano, e questo è lo pseudonimo adottato, un marchio di fabbrica inconfondibile, come lo era anche il marchio di fabbrica inconfondibile dei COD. Questa voce sicuramente è una voce che si ricorda. Nano, con tutte le lettere puntate, al nuovo pseudonimo che ha deciso di adottare Emanuele Lapiano. Si prosegue, anzi si chiude, la prima parte di Eclettica, che vi ricordo poi avrà altrettanta musica, altrettanto cinema e altrettante letture per i secondi 30 minuti. Si chiude questa prima parte, vi stavo dicendo, con una nuova formazione statunitense, newyorkese per la precisione, Brooklyn per essere ancora più precisi. Loro si chiamano Kaku Kanoi e ci fanno ascoltare Alaska Wolf Slave. Saturday was okay, I had you in my sleep. Never mind the blown charade, uncertainty. I'm